questa notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Questo qui è diventato fuori di testa, fa contare questo cazzo di Dudu, ma Dudu deve essere affidato alla vivisezione, lui quel cane lì e basta. Io ce l'ho un cagnetto così, c'è la mia moglie, li detesto quei cagnetti. Perché? Perché? Perché quelli, i proprietari di questi cagnetti, in effetti non amano gli animali, non amano i cani, amano il proprio cane e detestano gli altri. Beh, voleva essere un po' spiritoso Grillo sul palco a Pavia, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, però diciamo non l'ha proprio azzeccata come stile comunicativo, quello di dire che Dudu deve andare alla vivisezione sapendo quante persone sono sensibili all'argomento, diciamo così, giusto una nota comunicativa. E poi ci sono naturalmente, questo è soltanto una nota di colore, molti fatti che vi racconto in questa chiusura di settimana, come sempre tutte le sere, in particolare significato nel momento in cui si chiude la settimana. Tra l'altro è arrivata una delle notizie di oggi, diciamo a conclusione per il momento, nel senso avete sentito parlare per la cronaca di questa strage in famiglia nel Vercellese con 3 morti, 2 anziani coniugi e la figlia 50enne. Si cercava il nipote irreperibile di 25 anni, è notizia di adesso che è stato preso con tracce di sangue sui vestiti. Quindi immaginiamo che non si sia fatto la barba probabilmente, ma aspetteremo fino all'ultimo, quando non ci sarà alcun dubbio, prima di dire qualcosa. In ogni caso, adesso vi riassumo la giornata. Sappiate che ci sono sempre 2 canali per le vostre comunicazioni in diretta. Uno gli sms al 349-238-6666 e l'altro è in realtà una pagina che è sempre aperta per voi, quella di Effetto Notte su Facebook. Potete naturalmente esprimere opinioni su qualsiasi argomento. Vado. Vercelli, strage in famiglia, 3 morti a Venezia, preso il nipote, tracce di sangue sui vestiti, erano stati uccisi a coltellate 2 anziani coniugi e la figlia. Renzi a Radio 24 assicura, escludo una manovra correttiva e c'è il via libera alle privatizzazioni, Poste ed Enav sul mercato. Dell'Utri, sì da Beirut all'estradizione, l'ex senatore PDL sarà presto in Italia, intanto Scajola è interrogato, risponde per 7 ore e secretato l'interrogatorio. Sudan, c'è speranza per Meriam, per lei un nuovo processo ed è esclusa la pena di morte, sarà la Corte Suprema a decidere a breve e ci sarà anche un ospite che ci parlerà di lei poi qui a Effetto Notte. Tennis, impresa di Sara Errani agli internazionali di Roma, l'azzurra supera in 3-7 la cinese numero 2 al mondo e vola in semifinale. Basket al Forum di Assago di Milano, le finali di Eurolega. Partiamo quindi dalla politica con le dichiarazioni oggi a Radio 24 di Renzi e Berlusconi. Renzi è stato ospite di Alessandro Milan a 24 Mattino e ha detto: io resto ottimista, non è un ottimismo stupido, ma che fai conti, dice, con la realtà. Noi non diciamo che la crisi sia finita, ma i segnali di ripresa sono importanti. Non è un ottimismo stupido o vano, è l'ottimismo di chi vede 74.000 posti di lavoro in più nell'ultimo periodo, è l'ottimismo di chi vede i mutui tornare a crescere il 18% in più. Naturalmente è un ottimismo che fa i conti con la realtà, nessuno di noi sta dicendo la crisi è finita, tranquilli, però credo che ci siano dei segnali di ripresa che siano molto importanti. Ospiti sempre a Radio 24, oggi anche Silvio Berlusconi, intervistato da Giovanni Minoli, ha scherzato, Giovanni Minoli a Mix 24, su Bergoglio, il Papa, ha detto è bravo a fare il Papa, lo fa come l'avrei fatto io, sì è vero, ha concluso l'ex premier, abbiamo la stessa età, ma io sembro più giovane. Mi piace molto perché fa il Papa esattamente come l'avrei fatto io. Accidenti, è per quello, insomma, è bravo perché le assomiglia. Io la metto in un'altra maniera, me lo dica. Sono io che sono bravo perché assomiglio al Papa. Va bene. Tanto più o meno avete la stessa età, grosso modo. Senta. Sì, ma io li porto meglio. E poi Berlusconi, sempre a Mix 24, ha parlato delle europee, ha annunciato che se Forza Italia dovesse scendere sotto la soglia del 20%, lui non farà comunque alcun passo indietro. Ho davanti un'operazione titanica, dice, trasformare la maggioranza moderata in maggioranza politica organizzata, ha concluso l'ex presidente del Consiglio, e ha anche aperto a un nuovo accordo con il leader del nuovo centrodestra, Angelino Alfano. Intanto lo scontro politico è sempre più proiettato, come si può immaginare, verso le elezioni europee. L'imminente voto per le europee condiziona di fatto i lavori parlamentari e il dibattito politico. Lega all'attacco alla Camera contro l'operazione Mare Nostrum, così Caparini. Più 825% rispetto al 2013 gli sbarchi nel nostro paese. Dibattito sull'immigrazione che esce però dai binari, espulsi dal vicepresidente Di Maio e deputati del Carroccia all'Asia e Pini, che hanno interrotto ripetutamente l'intervento di Rabino, Scelta Civica. Collega Pini, anche lei è espulso dall'aula, forza. Mancanza quindi quindi del numero legale sempre alla Camera sul decreto casa. Altro fronte di polemica, il via libera di Montecitorio all'arresto del deputato genovese. Il sì dell'Aula c'è stato solo grazie a noi, dicono dal Movimento 5 Stelle. Giulia Grillo. Il Movimento 5 Stelle ha pressato il PD per votare e poi anche nei tempi, evitando ulteriori dilazioni. La magistratura faccia il suo corso e la politica torni ad occuparsi di riforme, replicano dal PD. Altro capitolo, la sfida nel centrodestra per le europee. Forza Italia non è né carne né pesce, dice Alfano. Il nuovo centrodestra non raggiungerà il quorum, attacca Berlusconi. Cicchitto replica. Adesso è in preda ad una disperazione politica che lo porta anche a dar cifre obiettivamente sbagliate. Alla frenata del PIL guarda invece Sinistra, Ecologia e Libertà. Le stime del governo sono clamorosamente sbagliate, spiegano i deputati di Vendola. Contro l'euro, Fratelli d'Italia. Il potere d'acquisto delle famiglie si è dimezzato, dice la Meloni. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E passiamo alla vicenda dell'Utri. Forse già giovedì l'ex cofondatore di Forza Italia potrebbe rientrare nel nostro paese, dato che il Libano ha dato il suo via libera all'estradizione. I tempi sono stati più veloci del previsto, eppure l'esito è probabilmente diverso dalle attese. Marcello Dell'Utri tornerà in Italia già la settimana prossima e qui sconterà la sua condanna. Il Libano ha infatti dato il suo sostanziale via libera all'estradizione dell'ex senatore PDL, arrestato in un lussuoso albergo di Beirut il 9 aprile, alla vigilia della sentenza che ha chiuso definitivamente una vicenda giudiziaria lunga 20 anni. È stato il giudice Amal Ayoudi a comunicare che già la settimana prossima, forse giovedì, il fondatore di Publitalia potrebbe rientrare, una volta che primo ministro e presidente della Repubblica abbiano controfirmato quello che il Consiglio dei Ministri e prima la Procura di Beirut avevano già deciso, cioè il via libera al decreto di estradizione. Ma i difensori di Dell'Utri frenano sui tempi. È prematuro, dice l'avvocato Krog. L'ex senatore si trova agli arresti nella clinica Al-Hayat dopo che i giudici palermitani avevano ipotizzato un rischio di fuga, ed è qui che è stato raggiunto il 9 maggio dalla sentenza della Cassazione con la conferma alla condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Se dunque il Libano doveva essere il rifugio per la latitanza, i fatti non sono andati secondo le previsioni. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E da Dell'Utri all'inchiesta su Expo. Non ho intenzione né voglia di fare gite milanesi, ha detto Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione, chiamato dal presidente del Consiglio Renzi a seguire i lavori dell'Expo dopo i recenti scandali. La nostra presenza ha un senso se ci danno strumenti di controllo, ha detto Cantone, strumenti di controllo ad hoc, se si impone alle società private di seguire le norme di trasparenza, ha parlato da Napoli. Cantone concorda con lui il commissario unico per Expo Milano 2015, Giuseppe Sala, che è tornato oggi a chiedere interventi. Dal mio punto di vista, ad esempio, credo che la miglior operazione da fare per mettere in salvaguardia ancora di più il sistema sia di definire con più attenzione ancora chi fa parte delle commissioni di gara. Se devo fare una richiesta, una cosa mi piacerebbe, ecco, vorrei che fosse Cantone, qualcuno di sua indicazione, qualcuno dei suoi uomini a partecipare ad ogni commissione. Privatizzazioni, il 40% di Poste Italiane e il 49% di ENAV, dell'ente nazionale aviazione civile, andranno sul mercato. A deciderlo è stato oggi il Consiglio dei Ministri con due decreti in cui si stabiliscono criteri e modalità di privatizzazioni e alienazioni. In entrambi i casi comunque la partecipazione maggiore rimarrà nelle mani del Ministero dell'Economia. Avanti tutta con il piano di privatizzazione del governo. Sul mercato il 40% di Poste Italiane e il 49% dell'ente per l'aviazione civile. In entrambi i casi la maggioranza resterà in mano al Ministero dell'Economia. Diverse però le opzioni aperte. Per il gruppo Postale infatti si indica la sola via dell'offerta al pubblico, quindi della quotazione anche in più fasi, con meccanismi che incentivino la sottoscrizione delle azioni da parte dei dipendenti. L'operazione dovrebbe portare, secondo le intenzioni del governo, introiti per circa 4 miliardi di euro, a fronte di una possibile valorizzazione del gruppo di una decina di miliardi. Nel caso di ENAV invece, pur rimanendo questa la corsia preferenziale, non si esclude di affidare il pacchetto a un privato attraverso un'asta competitiva. L'azienda è sana, riconosciuta a livello mondiale con importanti margini di crescita, ha commentato a caldo l'amministratore delegato Massimo Garbini, ed è pronta dunque a qualsiasi sfida, compresa la quotazione in borsa. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci all'estero, ci sono delle speranze. In Sudan per la la giovane donna, ne abbiamo parlato ieri, no? Condannata a morte per aver rifiutato di convertirsi all'Islam e aver sposato un cristiano. Per lei è previsto un nuovo processo, sembrerebbe esclusa la pena di morte, poi però, come vi dicevo, ne parliamo senz'altro dopo. Adesso con la cronaca torniamo in Italia. Vi dicevo appunto, a Santiana il Vercellese la strage di una famiglia, sono stati trovati morti nella loro abitazione due anziani coniugi e la figlia cinquantenne, si cercava il nipote di 25 anni che abitava con loro, è stato trovato a Venezia con tracce di sangue sui vestiti. E ora la vicenda di Rignano Flaminio, ve la ricordate? Non ci fu nessun abuso nella scuola Olga Rovere, appunto, di Rignano Flaminio nel Lazio. Assolti i cinque imputati, secondo la terza sezione della Corte d'Appello, i piccoli non hanno subito violenze. Il fatto non sussiste. Assolte con formula piena le cinque persone accusate di abusi sessuali sui bimbi della scuola di Rignano Flaminio. La sentenza emessa dopo tre ore di camera di consiglio assolve le maestre Marisa Pucci, Silvana Magalotti, Patrizia Del Meglio, l'autore TV Gianfranco Scancarello, marito della Del Meglio, e la bidella Cristina Lunerti, confermando così la sentenza di primo grado. Era il 2012 quando infatti fu stabilito che il caso era frutto della errata interpretazione di alcuni disagi che i piccoli avevano. L'accusa era di violenza sessuale di gruppo, maltrattamenti, corruzione di minore, sequestro di persone, atti osceni, sottrazione di persone incapace, turpiloquio e atti contrari alla pubblica decenza. Deluse le mamme e gli avvocati che dicono non hanno voluto credere ai bambini che hanno descritto oggetti trovati nelle case degli imputati e portano i segni sul corpo come le tracce di benzodiazepine sui capelli. Ritenevamo ci fossero delle prove concrete, ma la Corte è stata di diverso avviso. Tra 90 giorni ci saranno le motivazioni della sentenza e si valuterà se fare ricorso in Cassazione. Enza Loddo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo anche di omofobia, perché domani 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia. È puntuale, è arrivata alla sollecitazione di Giorgio Napolitano, del Capo dello Stato, che ha detto: va decisamente promossa una cultura dell'inclusione e del rispetto di ogni differenza, con iniziative adeguate, idonee nella famiglia, nella scuola, nelle varie realtà sociali, in ogni forma di comunicazione. Tra l'altro l'Italia, secondo una ricerca europea, risulta tra i paesi col più alto tasso di discriminazione in Europa quanto a politiche nei confronti dei diritti delle persone omosessuali, transessuali, bisessuali, però nei fatti sembrerebbe che l'opinione pubblica vada molto più velocemente invece, diciamo, ha una sensibilità maggiore nei confronti dell'omosessualità, cresce più rapidamente tra i nuovi paesi europei analizzati. Poi in chiusura lo sport, tennis, c'è stata l'impresa di Sara Errani, l'azzurra supera in 3-7 la cinese numero 2 al mondo Li Na Ko e vola in semifinale a Roma, mentre ci sono semifinali ma di altro tipo, con una palla un po' più grossa, dove ci aspetta Dario Ricci. Dario? Sì, Roberta, in diretta dal Forum di Assago, Final Four dell'Eurolega di basket, grande spettacolo, è in corso il derby spagnolo tra Barcellona e Real Madrid, mancano 4 minuti e 50 alla fine del primo quarto, il Barcellona avanti 12-6, chi vincerà sfiderà in finale il sorprendente Maccabi Tel Aviv, che dopo aver eliminato Milano nei quarti dei playoff oggi ha compiuto un'altra impresa, buttando fuori il CSKA Mosca di Ettore Messina, pensate, russi avanti anche di 15 punti nel corso della partita, poi battuti all'ultimo tiro da una prudenza di Rice per 68 a 67 davanti ai 7.000 tifosi israeliani impazziti. È stata una vera e propria marea giallo-blu quella che si è vista qui al Forum, tanto spettacolo, fa festa anche la Milano del basket per 3 giorni, capitale europea della palla spicchi. Allora dopo con la palla spicchi, che tifo proprio, tifo da stadio, vorrebbe dire palazzetto, anzi un palazzone, quello di Assago a Milano. E prima di lasciarci per aggiornare chi sta viaggiando, aggiorniamo anche Emanuele che dice che è bello viaggiare di notte ascoltando Effetto Notte, è un po' sera ma fa anche notte. E poi Ottavio che mi chiede di iniziare la diretta alle 18.30, quindi uno stop di quante ore non ha ancora precisato Ottavio. E poi c'è Alberto da Torino che dice: se Grillo ironizza in modo stupido, dice, sugli animali e grida allo scandalo, se Berlusconi ironizza su Bergoglio, tutto normale. Saluti da Alberto. Beh, in realtà abbiamo detto, no, che quella di Grillo, insomma, non è stata molto così calzante come ironia. E poi vabbè, Berlusconi si sa, Berlusconi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. ti dico, pochi istanti che mi fanno anche balbettare, tanto ero impreparata subito a questa immediatezza, diciamo, di ritorno in onda. Vedo una notizia di pochi istanti fa: un'agenzia Libia, scontri a Bengasi, bilancio si aggrava a 24 morti. E poi anche una ricerca che poi cercherò di aprire se è possibile: omicidi in famiglia, killer in 9 casi su 10 uomo. Non lo sapevamo, è proprio una cosa inaspettata questa, che su 10 casi 9 fossero realizzati da uomini. Ma adesso passiamo alle notizie più importanti della giornata e poi parleremo di economia. Via libera le privatizzazioni di Poste e Enav che sono sul mercato. Renzi dice non ci sarà nessuna manovra correttiva. Intanto oggi c'è stato anche caos relativamente alla fiducia sul decreto legge relativo alla casa. E poi Dell'Utri, sì, da Beirut all'estradizione, l'ex senatore del PDL sarà presto in Italia. Intanto Scajola è stato interrogato, ha risposto per 7 ore ed è stato però secretato l'interrogatorio. Strage di famiglia nel Vercellese, è stato trovato a Venezia il nipote di 25 anni sospettato di questa strage, di cui sono vittime 2 anziani coniugi e la figlia cinquantenne nella loro casa nel Vercellese. Sudan, c'è speranza per Meriam, la donna condannata a morte per non aver accettato di convertirsi all'Islam. Per un nuovo processo ed esclusa la pena di morte, sarà la Corte Suprema a decidere a breve. Per il tennis, vi dicevo, dell'impresa di Sara Errani che passa alle semifinali. E per il basket abbiamo sentito l'aggiornamento dal forum di Assago. Milano è la capitale europea in questi giorni del basket per 3 giorni di seguito. Ma passiamo a questioni più prosaiche, alla doccia fredda di ieri sulle aspettative di anche timida ripresa economica per l'Italia. C'è stato questo ritorno alla decrescita, il quadro economico, quindi è ben poco confortante, no? Col PIL che torna negativo, nel primo trimestre c'è stato un meno 0,1%, come non succedeva dal 2000. È crollata la borsa, lo spread è schizzato a 180, paura sull'Italia, titolavano vari giornali, siti, eccetera, anche se oggi Renzi, avete sentito la Radio 24, ha detto: escludo categoricamente una manovra correttiva. È vero, Dino Pesole del Sole 24 Ore, quindi possiamo star sicuri, stiamo sereni. Siamo sereni, c'è una battuta che... Che inquieta. Comunque no, per quanto riguarda la manovra correttiva, certo, in parte ha anche ragione Renzi, perché obiettivamente il dato che riguarda i primi 3 mesi dell'anno, e dunque adesso bisognerà attendere che si stabilizzi quantomeno nel secondo trimestre. Secondo me tra l'estate e diciamo tra luglio e settembre si dovrà rifare un po' il quadro e stabilire, perché se ci sarà effettivamente meno crescita, il governo ha previsto quest'anno un PIL in crescita dello 0,8%, ed è tutto evidente che se questo target non venisse rispettato, è di molto, e si dovrebbero rivedere anche i parametri di finanza pubblica. Su questo non c'è dubbio, è abbastanza automatico, però obiettivamente è abbastanza presto. Speriamo, devo dire un po' tutti, che le misure che sono state adottate dal governo diano i frutti sperati. Mi riferisco al bonus IRPEF e allo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione, e soprattutto speriamo che riprenda il ciclo europeo, perché non dimentichiamo che noi siamo immersi in una situazione dell'Eurozona che, con eccezione della Germania, che è cresciuta dello 0,8, vede i paesi sostanzialmente fermi. La Francia è a zero, addirittura l'Olanda e la Finlandia hanno registrato il segno meno. Dunque il quadro complessivo non è molto esaltante in tutta Europa, di questo occorre tener conto, ma per quel che riguarda l'Italia bisogna fare le cose che servono: semplificazioni, meno burocrazia, meno pressione fiscale, più tagli alla spesa pubblica, quella improduttiva, insomma c'è molto da fare. La doccia gelata del PIL in caduta può anche essere una sfida ulteriore al governo, perché acceleri le riforme che ha in cantiere. Senti Dino, tra le altre cose oggi è arrivato il via libera dal Consiglio dei Ministri alla privatizzazione, una parte di Enav e Poste, perché poi la gran parte invece della quota è controllata sempre dallo Stato, dal Ministero del Tesoro. Questo può aiutare un po', serve, no? Era detto da tempo, queste privatizzazioni potrebbero aiutare i conti pubblici? Sì, si tratta di una decisione, per la verità, che era stata assunta già dal governo Letta e annunciata dall'ex ministro dell'economia Saccomanni, che spiegò esattamente i termini. La decisione del governo di oggi è quella di approvare un decreto ministeriale, un DPCM si chiama in gergo tecnico, che dà l'avvio all'operazione. Può aiutare? Senz'altro sì, poiché dalle stime del governo Letta, confermate dal governo Renzi, questa doppia operazione su Poste Enav potrebbe garantire allo Stato un introito che si colloca tra i 5 e i 6 miliardi, che obiettivamente in questa fase potrebbe essere utile, anche se bisogna ricordare che i proventi delle privatizzazioni vanno a riduzione del debito, e quindi per un debito che supera i 2.000 miliardi di euro, che è in valore al PIL oltre al 130%, 5 miliardi sono una goccia nel mare, però comunque è un segnale, obiettivamente un segnale. Poi naturalmente bisogna capire quali saranno le condizioni di mercato, perché non basta poi la volontà di vendere, bisogna che ci sia qualcuno che compra e che compri al prezzo giusto. Questo è un po' il punto. Già, grazie Dino Pesole intanto. Grazie a voi, buona serata. Ciao Dino, a te buona serata. Vogliamo sentire giusto un passaggio di Crozza del Paese delle Meraviglie per sorridere un po' dopo questi... Organizzata, scenari. Arresti, fughe in Libano, servizi segreti, servizi sociali. Sai, tipo un poliziesco che non vedi l'ora di vedere come finisce, no? Ecco, il problema è che da noi non finisce. Non finisce mai. Esce a fascicoli. Speriamo invece che una brutta storia finisca. Avete sentito in Sudan, ne parlavamo anche ieri, di questa giovane donna, Miriam, che è figlia di un uomo musulmano e di una donna cristiana, però il padre l'ha abbandonata presto, lei è cresciuta con la madre cristiana, ha sposato un uomo cristiano e in Sudan è stata condannata, nonostante abbia già un bambino di 20 mesi con quest'uomo e incinta di un altro, è stata condannata a morte. Perché non ha abiurato la religione cristiana e non ha deciso di convertirsi a quella islamica. In più condannata anche a delle frustate perché avrebbe peccato di adulterio pur essendo sposata regolarmente, perché siccome non è considerato valido il matrimonio con un cristiano, lei che dovrebbe essere musulmana. E quindi ieri se ne è parlato moltissimo, no? Anche sulla scia delle ragazze nigeriane rapite, quindi... cose che stanno succedendo in un'Africa che sta molto cambiando, che è sempre in subbuglio da sempre, che sta prendendo delle vie particolari, soprattutto in alcuni stati, no? Con l'integralismo islamico che avanza. Però sembra, notizia di oggi appunto, che ci possa essere un nuovo processo per Miriam e che sia stata esclusa la pena di morte. Ha dato comunicazione di questo Antonella Napoli, presidente di Italians for Darfur, citando rassicurazioni di alcuni avvocati. Allora è qui Antonella Napoli in collegamento a rassicurare anche noi. Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Antonella, che è anche giornalista e scrittrice. Prima di tutto è il nostro referente, l'organizzazione Sudan Change Now, che ci ha garantito questa notizia, ci ha garantito la veridicità di questa notizia, cioè che il prossimo grado di giudizio, che dovrebbe essere a breve, permetterà di arrivare poi alla Corte Suprema, che è considerata più un organo politico. Una parentesi, al governo sudanese non fa piacere che si arrivi a una sentenza di morte. È chiaro che questa è una vicenda che è sfuggita un po' di mano al governo sudanese, perché a quanto sappiamo questo giudice è stato in qualche modo manipolato dai parenti della donna, che hanno presentato degli zii paterni, che hanno presentato una denuncia contro questa donna e hanno anche fornito delle cosiddette prove della sua fede musulmana, poi quindi tradita per la religione cristiana. Quindi da quanto è stato rassicurato sia a Sudan Change.org che agli avvocati, nel giudizio finale dovrebbe essere esclusa la pena di morte. Quindi esclusa la pena di morte, anche se ancora peggio questa storia, perché è tradita dai suoi stessi familiari, quelli dalla parte paterna, il padre che poi l'aveva pure abbandonata, di fede islamica, perché lì, perché diciamo nel maschilismo generale la religione si tramanda attraverso la linea paterna, no? Quindi non ha importanza che la madre sia cristiana. Purtroppo in Sudan non siamo nuovi, non sono nuove queste notizie. Noi come Italians for Darfur ci siamo anche in passato occupati di donne condannate alla lapidazione per adulterio presunto o conseguenza di un abbandono, e anche in quel caso la mobilitazione è stata molto importante, perché siamo riusciti a raccogliere centinaia di firme, migliaia di firme, abbiamo ampliato quello che era l'orizzonte internazionale, perché Italians for Darfur fa parte di una coalizione internazionale che si occupa di Sudan, che al momento è una delle realtà più importanti dell'Africa, ma dove purtroppo si consumano violazioni di diritti umani, e anche c'è in corso una delle crisi umanitarie più importanti del mondo, quella del Darfur. Quella del Darfur, che è una regione occidentale, paese? Sì, è una regione. Io sono fondamentalmente una giornalista che poi si è appassionata alla causa del Darfur, perché da giornalista ho toccato con mano quella realtà, tornando testimoniato quello che avevo visto, ma purtroppo in Italia si parlava pochissimo o per nulla di Darfur. Ho raccolto le testimonianze delle donne stuprate, perché le milizie arabe assoldate dal governo per tenere sotto controllo l'opposizione, la ribellione del Darfur, hanno usato lo stupro come arma di guerra. Questo succede in molte parti del mondo, no? Purtroppo, un po' in tutto il corso della storia. Antonella Napoli. Senti, ma a proposito, poi, fra l'altro, a parte questo, di lapidazione sono vittime anche gli uomini in caso di adulterio, o è sempre un trattamento riservato alle donne questo? Sì, ma qualche tempo fa, non in Sudan, ma nello Yemen, c'è stata una lapidazione che ha visto insieme uomo e donna. Purtroppo è una delle forme di esecuzione di pena di morte più atroci, perché praticamente vengono lanciate dalla folla queste pietre fino a quando le vittime non muoiono. C'è anche l'impiccagione, ecco, ad esempio per Miriam, cosa che per fortuna sembra ormai scongiurata, ma la sentenza prevista era l'impiccagione. Antonella Napoli, una cosa importante, già ieri diverse ascoltatrici e ascoltatori, anche oggi, già mi chiedevano che cosa si può fare, no, da privati cittadini per aiutare questa donna. Intanto firmare l'appello, perché noi comunque continuiamo con la nostra mobilitazione, anche se ci rassicurano. Il nostro appello è stato rilanciato da Avvenire, che c'è anche un hashtag su Twitter. Andando su Italians for Darfur, intanto si va sulla petizione, e siamo ormai l'ultimo sguardo che avevo dato al nostro contatore dava circa 5.000 firme. Ecco, in poche ore comunque abbiamo raccolto un po' di firme, poi adesso magari anche col vostro aiuto e la vostra sensibilizzazione si potranno aumentare. Queste firme saranno poi inviate al presidente Bashir. Nel caso che non venisse mantenuta questa promessa, questo proposito di arrivare all'ultimo giudizio con una revisione del processo, è l'unico che potrebbe garantire la grazia a Miriam, ovviamente, sarebbe il presidente del Sudan, Omar al-Bashir. Quindi la grazia non è che si prevede poi una conversione in altre condanne, in altre pene? È chiaro che si teme che nel momento in cui si superasse il rischio della pena di morte possa rimanere a parte la prigione, anche la fustigazione, cioè le frustate, che è una delle pene che vengono che possono subire le donne accusate di apostasia, insomma, di adulterio, come in questo caso assurdo, che è prevista la sharia. Perché ecco, il punto è questo: in Sudan, come in molti paesi musulmani, vige la legge della sharia, la legge islamica, che nel caso dell'adulterio e dell'apostasia non prevede perdono. Senti, io vi do il vostro sito, sì, Antonella Napoli, che sì, è quindi www.italians con la S, tutto attaccato, Italians for Darfur, Italians for Darfur, con la O proprio, for Darfur.it. E questo, e lì si può firmare quindi questa petizione. E queste firme, detto, verranno mandate al presidente del Sudan e si spera che possano fare una certa pressione, almeno emotiva, insomma. Ma io sono ottimista. Sono certa che non sarà nemmeno necessario arrivare a questo, perché arriverà a breve la notizia che tutti aspettiamo, ovvero che Miriam possa tornare a casa col suo bambino, che purtroppo non sta affatto bene, come lei tra l'altro, perché lei è in carcere da febbraio, tra l'altro, sì, no? Ecco, sì, tra poche settimane dovrebbe partorire. E quindi la speranza che possa essere rilasciata al più presto e tornare a casa. Lo speriamo con te, naturalmente lo ricordiamo che è soltanto una goccia in un oceano di ingiustizie, queste di barbarie, però intanto cominciamo da qualcosa. Grazie Antonella Napoli. Grazie a voi. Ciao, grazie. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, tra poco ve le ricordo le notizie più importanti di oggi, se mai aveste acceso la radio in questo momento o voleste risentirle. Ringrazio anche chi sta scrivendo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche Alessandra Ropic. Poi metterò sulla pagina Facebook anche l'indirizzo per aderire alla petizione per la giovane donna sudanese. Vedo anche molti vostri messaggi al 349-238-6666, qualcuno che se la prende con la sentenza di Rignano, dice: sentenza inimmaginabile, vite devastate state sull'onda di una moda. Adesso questa è la sentenza, poi ci sarà il ricorso in Cassazione e staremo a vedere. Comunque ritorniamo sulle notizie principali. Vi dicevo, Vercelli, nel vercellese, strage di famiglia con 3 morti uccisi a coltellate. A Venezia è stato arrestato il nipote di 25 anni con tracce di sangue sui suoi vestiti. E poi, a proposito del prodotto interno lordo, del calo, Renzi esclude una manovra bis e attacca noi più forti dei pagliacci. Per quanto riguarda Dell'Utri, dal Libano dicono sia l'estradizione, l'ex senatore PDL sarà quindi presto in Italia. Dal Sudan c'è speranza, abbiamo sentito per Merian, ci dovrebbe essere un nuovo processo. Qualche ascoltatore scrive: è una pagliacciata, è assurdo che le facciano un processo, questo lo sappiamo anche noi, ma se può essere una via, diciamo, per evitare la pena di morte. E poi tennis, impresa di Sara Errani che vola in semifinale. Per il basket, poi ci aggiorneremo di Assago per le finali di Eurolega. E invece adesso spostiamoci sull'India. Il partito di centrodestra Bharatiya Janata Party, se questa è la pronuncia, ha stravinto le elezioni legislative indiane. Sapevate che noi le aspettavamo tutti gli italiani, insomma, con un certo fiato sospeso, con un po' di attesa, perché da queste, si dice da tempo, dovrebbe dipendere anche la sorte dei due fucilieri italiani che sono lì ormai da molto tempo. Nel nuovo leader politico Narendra Modi è considerato, quello che ha vinto, un nazionalista indù dell'ala dura, che ha portato a una vittoria elettorale senza precedenti. Il suo partito ha un ambizioso programma che prevede il rilancio dell'economia, la lotta alla corruzione, un forte stimolo all'export di prodotti indiani e un controllo dei prezzi dei generi di prima necessità. Fra i dossier però che il nuovo premier dovrà esaminare vi è quello appunto che riguarda i fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Nella campagna elettorale Modi è stato spietato, ironico, accusando Sonia Gandhi di aver favorito i viaggi in Italia e la libertà provvisoria per i due, ma adesso, insomma, per questioni diplomatiche, di buone relazioni con l'Italia, che cosa farà? Lo chiedo all'ambasciatore Antonio Armellini. Buonasera. Buonasera. è stato ambasciatore diversi anni in India. Ambasciatore, intanto come ha accolto la notizia lei di questa vittoria, visto che conosce bene il paese? La vittoria era certamente prevedibile, non era prevedibile in questa misura. Direi che il successo di Modi è andato al di là delle sue stesse, credo, immagini, previsioni, perché si pensava a una maggioranza per la sua coalizione, mentre invece la maggioranza ha riguardato anche il suo partito, quindi questo personaggio non nuovo della scena politica indiana, ma certamente che ne innoverà i contenuti e il funzionamento, si trova davanti alla possibilità di formare un suo proprio governo in una libertà più ampia di quanto non si sarebbe immaginato alla vigilia. Vedremo cosa questo vorrà dire per un paese che ha accolto il suo messaggio di rinnovamento con un entusiasmo che ha dato molto al di là delle previsioni. Da questo a tradurre tutto ciò in realizzazione di governo ce ne corre, vedremo. E questo, vabbè, sarà più una questione loro, anche se naturalmente interessa un paese così importante, una potenza sempre crescente, che cos'ha? 1,5 miliardi degli abitanti della Terra, che sono circa 7? La sento male, dovrei parlare un po' più forte, per cortesia. Dicevo, Ormellini, dico, per quello che poi sarà il proseguimento di questo governo. Mi sente? Sì, adesso sì. Sto parlando fortissimo, Ormellini, non... dicevo. Sì, ma la linea è quella che è. Quella che è, giustamente. Ambasciatore, allora, per quello che sarà il governo, per l'evoluzione che avrà, a noi interessa relativamente, comunque è sempre uno Stato estremamente importante, una potenza sempre crescente, che ha... È sempre in linea l'ambasciatore Ormellini? Pronto? Sì, sì. Pronto? Mi sente? Pronto? Senta, richiamiamolo. Non credo che sia in India, ambasciatore, ma dovrebbe essere in Italia. Riproviamo con la linea. Intanto torno sui vostri messaggi e dice qualcuno, dica che anche con le frustate vengono ammazzate queste donne. Lo si diceva che è una pena durissima, soprattutto poi per una donna incinta. Immaginiamoci 100 frustate, quelle che le sarebbero state combinate, ma che si spera possano anche queste essere evitate con questo nuovo processo, che secondo noi è una farsa, ma evidentemente lì per il momento, non potendo noi più di tanto ingerire, funziona così. Abbiamo raggiunto l'ambasciatore? Non ancora, l'ambasciatore Ormellini. Dicevamo appunto della vittoria in India del partito conservatore di centrodestra, di un induista della Ladura, questo leader del partito. E per quanto riguarda il governo indiano, vedremo come proseguirà. A noi interessa, ambasciatore Ormellini, capire adesso che direzione prenderà la vicenda dei due fucilieri italiani. Non mi sente? Pronto? Pronto? Niente, siamo un fisso però, mi ha dato il fisso, quindi dovrebbe essere... Ambasciatore? Niente, per il momento l'ambasciatore, vediamo se riusciamo a recuperarlo dopo le viabilità. Abbiamo gli aggiornamenti per chi viaggia? Aggiorniamo chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Magari ve le ricordo dopo le notizie, ma approfitto del fatto che forse siamo riusciti a contattare e a ritornare con Antonio Ormellini, ambasciatore. Sembra che ce la facciamo in questo momento. Ce la facciamo, ambasciatore. Quindi dicevo, al di là di come proseguirà la vicenda politica interna dell'India, ma quello che noi interessa è capire come si evolverà invece la vicenda dei due fucilieri italiani. Secondo lei adesso con questa vittoria, per le relazioni, che insomma si dovrebbe sbloccare in un senso o nell'altro, no? Certo, dunque, guardi, naturalmente fare una previsione certa è molto difficile, perché il governo deve entrare in funzione, però io credo che si possa dire questo, cioè che una volta raggiunto un trionfo elettorale, al di là di tutte le aspettative, la validità della carta italiana, così possiamo chiamarla, quella che è stata usata durante tutta la campagna elettorale per delegittimare Sonia Gandhi come rappresentante affidabile del suo paese, una vecchia storia, questa della carta italiana che ha perseguitato Sonia Gandhi per molti anni e che è stata usata efficacemente in campagna elettorale. Questa carta a questo punto ha perso la sua funzione, la sua validità, perché Modi ha vinto in realtà, quindi questo aspetto della vicenda Marò esce di scena. Che cosa succede adesso? Ci sono diverse ipotesi, Modi naturalmente si è espresso in termini molto duri durante la campagna, ma questo secondo me faceva parte della tattica elettorale. Credo che la situazione oggi è che una vicenda che riguarda la Torre Girone, che per noi è di primaria importanza, è agli occhi dell'opinione pubblica indiana assolutamente secondaria, al massimo fa capolino nelle pagine interne dei giornali, quindi in termini, come dire, politici indiani rileva abbastanza poco. Mentre invece la controversia internazionale che si accompagna a questa vicenda, qualche grattacapo al governo Modi può anche darlo. Il nuovo primo ministro indiano è un signore dal passato con molte macchie, però è anche un politico abile, cinicamente intelligente e molto pragmatico. Io credo che potrà probabilmente ragionevolmente immaginare che rispetto a continuare una vicenda che non gli porta granché se non nulla sul piano interno e può dargli dei fastidi sul piano internazionale, valga la pena cercare di chiuderla. Quindi secondo me si apre uno spazio negoziale maggiore di quello che c'era prima. Giustamente, nel senso, chi glielo fa fare, no? Di continuare a fare un braccio di ferro, dice lei. Chi glielo fa fare a fare una roba che fra l'altro a noi tocca molto, a lui non tocca quasi per nulla, tutto sommato. E quindi, come in termini di costo-beneficio, veramente non ha molto interesse a perseguire in questa cosa. Credo che si tratta da parte nostra di mantenere una posizione che sia ferma sulla internazionalizzazione, il rifiuto della giurisdizione, le cose che sono state dette, senza cadere nella trappola così di alzate di testa eccessive, perché potrebbero dare poi a modi tatticamente il destro per una risposta che soddisfi, come dire, lui qualche prezzo al suo elettorato fondamentalista deve pure pagarlo, quindi, ma credo che se noi siamo attenti questo non accade. Accanto a questo mi immagino che si apra adesso la possibilità di un negoziato vero, un negoziato che deve venire, io credo, assolutamente al di fuori dai riflettori in realtà, per capire come poterne venire fuori nel rispetto, come dire, degli interessi, ma anche della dignità di tutte e due. Quindi aspettiamo questo negoziato, ci vorrà ancora un pochino di tempo, però forse la strada è stata intrapresa. Grazie ambasciatore Antonio Ormellini, grazie e buona continuazione. Grazie a lei, arrivederci. Grazie. Lo spazio dell'Europa adesso per l'Euroreportage di questa settimana. Torniamo in Ungheria per il terzo reportage della nostra inviata Raffaella Calandra. Dopo avervi raccontato le trasformazioni del paese, dell'Ungheria, la minaccia dell'estrema destra, stavolta vi parliamo della battaglia di terreni e voti all'ombra dell'Europa. Ecco quindi un'anticipazione del reportage che va poi in onda domani mattina. Europa 24 notte. I colori dell'Ungheria, a sinistra le stelle dell'Unione. Sul tavolo pile di carte e dossier, compresi tutti i litigi con Bruxelles, sorride Enigio Gori, sottosegretario agli esteri con delega agli affari comunitari. È infatti anche merito di quello che tutti qui chiamano l'eurorealismo, se il premier Orban ha trionfato di nuovo alle ultime elezioni politiche, ed è anche per questo che nel cuore delle istituzioni europee si aspetta con preoccupazione il messaggio che può arrivare dalle terre magiare col voto di fine maggio. Al momento tra Budapest e Bruxelles è aperta solo una questione riguardante il trattamento dei dati personali. La Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento nei confronti dell'Ungheria dinanzi alla Corte di Giustizia per aver violato il diritto comunitario in tema di protezione dei dati personali. La ragione? Aver interrotto in anticipo il mandato del commissario addetto ai dati sensibili. E potrebbe arrivare però all'attenzione degli organi comunitari anche una battaglia dei terreni in atto tra Italia, Austria e Ungheria. Un cambio di rotta del governo rispetto alle concessioni demaniali potrebbe infatti mettere in difficoltà tanti allevatori italiani che negli anni si erano aggiudicati distese di ettari che Budapest vorrebbe ora redistribuire prima di tutto tra gli ungheresi. Siamo preoccupati, ma l'ambasciata si sta muovendo, rassicura Graziano Menossi, che guida la Camera di Commercio italiana a Budapest. È una preoccupazione che c'è, è una situazione piuttosto delicata in questo momento. Non si parlano di aziende come in Italia di 60 ettari, che è già una grande azienda. Qui quando si parla di una piccola azienda si parla di 1000 ettari, perciò voglio dire, stiamo parlando di gente che ha indubbiamente investito sugli allevamenti soprattutto. Dell'Europa continua a consumarsi anche la sfida tutta interna tra i vari partiti ungheresi, soprattutto tra i conservatori di Fidesz al governo e gli estremisti di destra di Jobbik, con una sinistra sempre più in difficoltà. Le acque con Bruxelles ora sono di sicuro più calme che nei mesi scorsi, ma non posso garantire che la stagione dei litigi sia finita. È come nelle migliori famiglie, sdrammatizza il sottosegretario Ghiori col suo ottimo italiano, eredità di anni all'ambasciata di Roma. Abbiamo rappresentato i nostri interesse in un modo molto più caratteristico che prima. E siamo stati pronti anche a andare contro alcuni interessi. E noi siamo sempre stati pronti a dialogare, l'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto con successo, tanto con l'Unione Europea, fatta come con il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia, cioè in questo momento non ci sono questioni aperte nelle relazioni fra l'UE e l'Ungheria. E sicuramente ci saranno dei litigi, perché noi siamo Europa realisti, nel senso che non pensiamo che soltanto far parte dell'Unione Europea e non criticare niente è il comportamento migliore. No, non ci crediamo, perché secondo noi ci sono tante cose che potrebbe fare meglio. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Intanto vedo che balla un certo stile Renzi Croz nel Paese delle Meraviglie, sentiamo che dice. Più di centrodestra che del centrosinistra. E quindi? Come millesimi ne hanno più loro. Ma cosa c'entra? Io non dico non dico di non votare Grillo perché siamo in democrazia e ognuno è libero. Questo le fa onore. Io non dico che chi vota Grillo, io dico solo che chi vota Grillo non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù, quando muore va laggiù. No vabbè, ma questo non è corretto, adesso non deve metterla su questo piano. Cosa fa? Io? Sì? Dico solo che chi vota Grillo gli capitano 7 anni di guai. Ma non è vero. Io dico solo che chi vota Grillo fa allargare il buco dello zombie. È arrivato anche Grillo. Veniva come simpatico questo Bettino Zombie. Renzi Grillo. Devi tagliare la Rai, ma devi farti assumere dalla Rai. Li fai degli show stupendi. Ma io quando facevo il comico ero molto meno cazzaro di te. Io non ho paura di te, ti sfido. Io ti sfido al grande derby del 25 maggio, la speranza contro la rabbia. Ma senti come parla, vedi? Ma senti questo Bettino come cazzo parla. Non so se sei più Bettino o sei più morto. Lo sapete perché un grillino quando va dal dentista ci porta sempre Casaleggio? Dai, fammi per avere l'autorizzazione ad aprire la bocca. Vabbè, insomma, lasciamoli lì al loro duello. Intanto invece noi cerchiamo di capire, ma questo tempo così instabile continuerà a passare da un opposto all'altro o prenderà una linea coerente? Colonnello Giuliacci. Sì, ciao Roberta. Ciao colonnello. Guarda, la primavera è fatta così, cioè, voglio dire, non può altro che essere così, perché si dice che la primavera è estremamente mutevole, lo sta dimostrando, no? Voglio dire, ci sono delle giornate belle e giornate brutte, ci sono delle mezze giornate belle e mezze giornate brutte, così sarà domani e dopodomani. Cioè, domani al mattino bello ovunque, nel pomeriggio rovesci sulle zone interne del centro, sulle regioni meridionali, qualche rovescio anche sulle Alpi, domenica bello al centro-sud, rovesci sulle regioni alpine, ma qualche rovescio potrebbe sconfinare anche in pianura. E guarda, lunedì ritorna un'altra perturbazione più intensa, porta pioggia al centro-nord, martedì migliora, ma attenzione, mercoledì, giovedì della prossima settimana arriverà la prima ondata di caldo di sapore estivo. Per dire, guarda, in una settimana quindi succede di tutto, temporali, sereno, temperature gradevole, poi arriva il caldo. Ma questa è la primavera. Chiaro, Roberta? Ti sto ascoltando, colonnello Giuliacci, ti sto ascoltando e mi chiedevo se forse questa primavera in realtà non sia stata un po' più pazzarella di altre, facendo così un... No, direi che... non è stata eccessivamente piovosa, anzi è stata nella norma come piovosità, a riprova che è stata una stagione primaverile come dovrebbe essere, quindi è che noi abbiamo i ricordi solo per le piogge, per le giornate belle, poi le giornate belle le dimentichiamo facilmente, no? In realtà in questa primavera direi ci sono stati. Grosso modo per ogni area del nord, centro e sud, il 50% grosso modo di giornate belle, o perlomeno metà bella mattina, metà bella pomeriggio, e 50% di giornate piovose, un po' diciamo con rovesci e qualche temporale. Quindi non diamo nessuna colpa a questa primavera, la assolviamo pienamente. Innocente, yeah. Va bene. Colonnello Mario Giuliacci, il resto lo potete poi leggere su www.mariogiuliacci, colonnello Giuliacci, www.giuliacci.it, giusto colonnello? Ciao, sì, buonasera, ciao, ciao. Ciao colonnello, www.meteogiuliacci.it, è questo quello giusto questa sera? insomma, diciamo, colonnello, ci siamo un po' confusi e dobbiamo anche lasciarci per ritrovarci tra qualche istante.